C'è sempre troppa abbondanza di cibo spirituale, anche oggi. Anche se, vediamo, io vorrei dirvi due parole su San Tommaso d'Aquino, che celebriamo oggi. È così che continuo in questo mese di gennaio a inanellare un santo dopo l'altro, no? Abbiamo fatto San Sebastiano, Sant'Agnese, San Francesco di Sales, abbiamo fatto Sant'Angela Merici, tra pochi giorni è Don Bosco e oggi è San Tommaso d'Aquino, perché i santi, oltre che essere amici di Dio e nostri fratelli maggiori, e saremo contenti domani in paradiso di trovarli e di salutarli. Ma cioè, ah, guardatelo qui, Francesco di Sales, me ne ha parlato una volta il mio prete. Così, no, oltre che essere nostri fratelli maggiori, sono veramente dei maestri. Qualcuno parla di magistero di santi, c'è il magistero della Chiesa, papi, vescovi, così, no? Ma c'è anche il magistero dei santi, con la loro vita. E io cerco, amandoli molto, cerco di guardare a loro perché sono coloro che hanno imparato il Vangelo, lo hanno cantato e ora cantandolo a me lo insegnano. È più facile imparare un canto ascoltandolo eseguito che non leggere una pagina di segni musicali che magari nemmeno conosciamo. San Tommaso d'Aquino occorrerebbe avere ben altri relatori che me, perché è uno dei giganti, e occorrerebbe avere ben altro tempo che il tempo feriale di un discorso. È un santo che per diversi secoli è stato un faro di riferimento per l'insegnamento della teologia nella Chiesa Cattolica, ma soprattutto è stato non solo una grande mente, è stato anche un grande santo. Lo dice bene la nostra liturgia, no? Io sono innamorato della liturgia ambrosiana, perché mi dice in questa prima orazione: o Dio, fonte di luce e di grazia, tutte e due le cose, eh? Non basta avere una testa fine, bisogna avere anche un cuore grande, tutte e due le cose, che illuminasti San Tommaso d'Aquino in modo mirabile e singolare, speciale, con il carisma della tua sapienza. Non dice l'intelligenza, è la sapienza che è attributo di Dio. Ecco, di solito le orazioni sono fatte così, no? Prima si fa l'enunciato, cioè prima si illustra la grandezza o di Dio o del santo, e nella seconda parte si chiede per noi, a quelli che sono chiamati a studiare e ad insegnare, concedi l'amore sincero e orante della ricerca. Mi fermo perché sono parole dense. A quelli che sono chiamati a studiare e a insegnare, io penso ai preti, penso ai catechisti, penso ai genitori, alle nonne, siamo tutti. Penso ai professori di teologia di università, ma non è il caso nostro, no? Penso a tutti coloro che sono chiamati a studiare e ad insegnare. Dobbiamo anche studiare, anche se siamo gente semplice, dobbiamo leggere, conoscere, studiare, imparare. E allora potremo tradurre agli altri. È importante questo, amici. Guai, guai se tu vuoi fare il catechista, se tu vuoi fare la nonna che tira su il figlio bene, il nipote bene, se non leggi le cose cattoliche, se non studi, se non ascolti, se non ti aggiorni. Guai, guai, guai. concedi l'amore sincero e orante della ricerca. Vedete che le unisce sempre le cose. L'amore sincero, ma anche che diventa preghiera. Dice un detto, non so se sarà vero, se non sarà vero, però è verosimile, che questo santo, San Tommaso d'Aquino, alcune volte l'hanno scoperto all'altare che apriva il tabernacolo e ci ficcava dentro la sua testa. Potrà essere vero o non vero, ma è significativo, no? Come per dire: Signore, illumina la mia testa, ma tu devi illuminare la mia testa, perché possano trasmettere fedelmente agli altri la verità contemplata per edificare la Chiesa. E infatti questo è il motto dei domenicani. Lui è stato un domenicano. Contemplata aliis tradere. Le cose che tu hai contemplato agli altri tu devi trasmettere. È bellissima, eh? Tante volte la gente parla senza sapere quello che dice, eh? Altre volte la gente parla di sua testa, e questa è già una cosa interessante. Altre volte la gente parla per ingannare. Ma uno di noi, parlo sempre a gente catechista, parlo sempre a nonne che insegnano, parlo sempre per preti che devono... Prima tu devi contemplare e poi devi trasmettere agli altri. Io uso un termine molto più popolare, vi do il mio latte. Cioè prima io mangio, prima io mi nutro, prima io prego, prima io leggo, prima io studio e poi vi do il frutto adatto per il popolo, adatto per il bambino, il latte. Ecco, sarebbe bello, amici, se tutti facessimo così, chiedendo l'intercessione di San Tommaso d'Aquino. Poi oggi c'era anche un bel Vangelo, ma ve lo spiego un'altra volta.